altro programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Puntata specialissima questa, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. D'altronde siamo in una data molto particolare e vogliamo, come si può dire, anche prepararci ai buoni propositi, parlando di un argomento molto particolare. Ci concentreremo su questo argomento, è una puntata monografica con diversi ospiti che tra poco vi presenterò. E diciamo che è ciò, così si usa dire, che muove il mondo, no? Cosa dite? No, non è l'alta finanza, no, non sono le banche, l'alta, no, neanche gli speculatori, il capitale, no, ve lo spiego subito. Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo di incoscienza. Ci vuol farina del proprio sacco, sensualità latina e un minimo di stacco. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Si fa così, sembra che si faccia così, poi non è tanto semplice. Se contiamo, ecco, l'argomento naturalmente è l'amore, direi il titolo potrebbe essere Viva la coppia fino a quando? Come si può rendere longevo il rapporto? Perché innamorarsi è facile, oddio, facile, insomma, tanti non si innamorano magari per tutta la vita. Però una volta, diciamo, che si è trovata la persona con cui si vuole stare, il difficile è trasformare un rapporto, così un incontro, in una vera storia d'amore, che sia duratura. Non è cosa facile, non ci sono ricette che valgono per tutti, però forse qualche indicazione, così confrontandoci un po', qualche suggerimento, qualche illuminazione, anche sentendo parlare gli altri, ci può venire. E allora, per parlare di questo argomento, per dirci quali possono essere gli ingredienti, una possibile ricetta, dei possibili appunto suggerimenti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, vi vado a presentare gli ospiti di oggi. Fausto Manara. Eccomi. Ecco, Fausto Manara, psichiatra, docente all'Università di Brescia, che ha scritto un libro pubblicato da Spergel & Kupfer, Amici, nemici, amanti possibili, come sopravvivere ai peccati capitali della coppia. Quindi, diciamo, avrà la responsabilità forse più pesante oggi, ma anche gli altri ospiti, per dirci effettivamente come possiamo avere la garanzia, dopo ce lo dirà, per una storia duratura. Gianna Schelotto. Buonasera. Gianna, psicoterapeuta, notissima naturalmente, l'ultimo tra i tanti libri che ha scritto, l'ultimo si intitola Noi due sconosciuti, siamo sempre appunto sulla coppia. Poi c'è Sveva Casati Modignani. Sveva. Buonasera. Ciao Sveva. Sveva è una delle firme più note della letteratura contemporanea, i suoi libri tradotti non so in quanti paesi, dalla Russia alla Spagna, in Polonia, Ungheria, Brasile. Sveva, tu sei, si potrebbe dire, un'esperta d'amore, di romanzi d'amore, quindi anche tu hai la tua bella responsabilità. Io sono esperta nei romanzi. Ecco, poi ci dirai, perché cioè, un po', avendo, cosa sono, un trentennio che scrivi, un quarantennio, quanto tempo è? non puoi semplicemente vivere nella finzione, ma dovrai dare anche delle indicazioni. E poi c'è Elisabetta Fernandez. Benvenuta Elisabetta, ciao. Buonasera. Elisabetta, che è sociologa, sessuologa, e ci dà in anteprima un libro, pensate che onore, che uscirà poi nell'anno nuovo, che si intitola Appassionatamente Corpo, pubblicato da Gabriele Editore, che verrà pubblicato da Gabriele Editore. Insomma, allora, raccogliamo un po' le forze, le energie, le idee, e vado ad aprire il libro di Fausto Manara, perché ha un indice che è ricchissimo e soltanto questo ci dà mille spunti. Tra i vari capitoletti scrive quello che minaccia la coppia, le illusioni, le frustrazioni, le censure, le aspettative, le rivendicazioni, il perbenismo, poi i peccati capitali nella coppia, accidia, avarizia, ira, invidia, insomma tutti gli altri che conosciamo, e tra i suggerimenti per essere degli amanti possibili, quindi dei complici, la creatività, la disponibilità a mettersi in gioco. Insomma, Fausto, non avrei mica scritto un libro così ricco per poi non darci la sicurezza di che cosa bisogna fare per visto tra l'altro che no. Guardando i dati Istat, scusa, mi è venuto in mente, pare che ci siano 85.000 separazioni l'anno, e se vogliamo andare proprio molto tecnicamente, oggettivamente sui dati appunto dell'Istat, dice che convoliamo sempre meno a nozze, condividiamo poco e, per non sbagliare, addirittura conviviamo, conserviamo conti correnti separati, non vogliamo mettere in comune neanche quello nel 63% delle coppie. Quindi o manca la fiducia, o manca la fiducia nel futuro, nel senso, si dice, navighiamo a vista finché va e poi ognuno per la sua strada. Mancano i soldi anche a proposito di crisi. Quindi dici, almeno per iniziare, un errore che non bisogna fare mai. Allora, premesso che i peccati capitali della coppia non sono accidi, avarizia, eccetera eccetera, magari ne parleremo dopo, ma sono altri: la permalosità, la lista della spesa, il controllo, certo, del partner. Quello che è l'errore più comune e più problematico per mantenere a galla un rapporto di coppia è l'ipocrisia, che apparentemente sembra che l'ipocrisia sia la grande coperta che tiene a bada le forze centrifughe che possono essere presenti nel rapporto di coppia. Dopodiché, nel corso della storia di una coppia, l'ipocrisia diventa quell'elemento per il quale due persone vivono insieme senza finire per sapere chi sono, senza avere nozione dei desideri veri dell'altro, dei bisogni, del modo di essere, ed è quello che in genere trascina le coppie lontane magari da quei numeri che dicevi dell'Istat, che dicono che le separazioni e i divorzi sono tanti e sono il doppio, diciamo, anche di quelle rilevate nel 95. Fausto, lo dico a tutti, che i coniugati ormai paiono merce rara, perché sono soltanto il 34% degli italiani, certo, che mi pare una cosa stranissima, no? Certo. E questo, tutto sommato, è un dato che, se lo vogliamo vedere nella solidità del rapporto a due, non è un dato brutto, perché non occorre il terzo esterno, che è il prete o il sindaco, che cementa la coppia. Quindi questo è un fai da te piuttosto interessante, perché una coppia abbia la consapevolezza di poter comunque funzionare. No, dicevo, non è soltanto il problema non sta soltanto in questi numeri, il problema sta nel gran numero di coppie che sta insieme soffrendo, insomma, che investe la propria vita in un destino che non è quello che si auspica. Scusa Fausto, ma tu parli di ipocrisia, ma l'ipocrisia è non dirsi semplicemente certe cose, o è la paura forse di svelarsi effettivamente per quello che uno vorrebbe fare, ma ha paura di scontentare l'altro? L'aspettativa è proprio ipocrisia, o magari timore di scontentare il compagno o la compagna? Beh, sai, l'ipocrisia non è certo il non dire tutto, perché insomma ci sono anche dei segreti che è giusto che vengano tenuti. Ciascuno di noi ha dei segreti che fanno parte del proprio mondo e che quindi tiene un po' per sé e svela poco. No, l'ipocrisia è il non dire apertamente quello che non funziona, non svelare i propri stati d'animo, il non svelare di sé quello che dà dispiacere, né svelare quello che sarebbe giusto svelare, perché ti può dar piacere, può magari essere condiviso, ma c'è il timore che questo non venga capito. L'ipocrisia è il non dire nel momento in cui hai un bisogno, che il bisogno esiste perché sei stato abituato a vedere molti tuoi bisogni disattesi, quindi il timore di scoprire che non c'è niente che possa soddisfarlo. Insomma, l'ipocrisia fa parte di quel tessuto della vita di tutti i giorni, nel quale per esempio si litiga poco. Io sono terrorizzato quando in terapia di coppia mi dicono che le coppie non litigano, perché questo è un segno che non circola niente. Aspetta Fausto, perché volevo chiedere su questa cosa, appunto, sul litigare, che invece a me terrorizza il litigare. Vorrei chiedere a Gianna Schelotto che ne pensa dal suo punto di vista, visto che anche lei ha un osservatorio privilegiato, che sono, diciamo, i clienti, i pazienti. Gianna, tu sei d'accordo che bisogna litigare, o forse a forza di litigare si rischia anche di dirsi delle cose cattive, di sfibrare il rapporto, che dici? Sì, dipende da che cosa ci si mette nel litigare. Voglio dire, litigare può essere anche un confronto un po' acceso su punti di vista diversi, ma muoversi senza paura di mostrarsi diversi e di accettare la diversità dell'altro, perché non litigare è davvero, c'è davvero il rischio che si finisca in una palude dove tutto è fermo, tutto è statico, ma sotto poi c'è di tutto, perché il timore di mostrarsi diverso da quello che noi pensiamo che l'altro si aspetti da noi vuol dire costruire giorno dopo giorno delle barriere che ci allontanano sempre di più l'uno dall'altro. Una volta avevi usato un'espressione che mi era piaciuta molto, Gianna Schelotto, che è quella del giardino segreto, no? In realtà non per forza bisogna dirsi tutto, ma ognuno deve mantenere un suo spazio intimo. Mi fai un esempio di cosa potrebbe essere il fatto di... Per esempio, ho avuto recentemente un paziente che mi ha raccontato una storia. Lui ha saputo alcune cose sul comportamento della propria madre, che non era un comportamento, come dire, questa signora era un po' vivace. E quindi lui ha scoperto, una vecchia zia gli ha rivelato che la sua mamma, quando lui era piccolo, era addirittura scappata di casa. Questa cosa qui, dato che la moglie era già in eterno conflitto con la suocera, lui ha preferito non dirla a sua moglie, perché faceva parte del suo mondo infantile, ma soprattutto faceva parte del suo rapporto con la sua mamma e della sua voglia di ignorare i difetti della mamma, quali che fossero, per continuare a pensare a lei come alla mamma più tenera, più dolce, più affettuosa che un bambino possa desiderare. Tutto questo, se lo avesse detto alla moglie, lei non gli avrebbe, per me, avrebbe fatto dei commenti, l'avrebbe criticata, avrebbe fatto delle riflessioni di tipo razionale. Allora lui non gliele ha dette perché questo riteneva facesse parte del suo giardino segreto, cioè del suo bisogno di conservarsi della mamma un ricordo bello che non voleva che fosse minimamente influenzato da giudizi esterni. Mi pare più che legittimo, quindi abbiamo parlato. Intanto, a proposito appunto di suggerimenti per cercare di mantenere un rapporto il più lungo possibile, di ipocrisia da un lato, insomma, cercare invece di dirsi le cose, non tutto, proprio per questa espressione che usa Gianna Schelotto, di giardino segreto. Non ci sono più le mezze stagioni. Prendi una donna, dille che la... Scrivi le canzoni d'amore, manda le rose, poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle meglio, del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai, e sta sicuro che ti lascerà. Chi è troppo amato muore non dà, e sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore, non farti vivo quando la chiami, falla come fosse un favore. Fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà, cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà. E questa allora era una vecchia canzone di Marco Ferradini quando ero bambina, che mi colpiva molto, anche se poi dopo si riscatta, diciamo, il protagonista. Sveva Casati Modignani, nei romanzi, no? Bisogna strapazzarsi un po' il cuore, bisogna l'amore irraggiungibile, i vari conflitti, e un po' si soffre nelle canzoni come nei romanzi. Poi di solito, almeno nei romanzi, trionfa l'amore, perché vogliamo darci delle consolazioni, un po' di speranza, un po' di illusione, almeno nelle rappresentazioni che ci facciamo noi della realtà, che sono il cinema, la letteratura. Che pensi, Sveva, nei tuoi romanzi? Nei miei romanzi, tra l'altro, l'ultimo libro tuo si intitola Un amore di marito, no? Sì, sì, nei miei romanzi di solito trionfa la dignità della donna, vero? Però vorrei dire che i rapporti di coppia sono molto cambiati negli ultimi anni rispetto a quelli che io ricordavo di coppie come per esempio la mia nonna e mio nonno, o la mia mamma e mio papà. Sono cambiati tantissimo. Una volta io non ricordo che il nonno e la nonna litigassero, o mio padre, mia madre. Mio padre e mia madre litigavano, ma nel senso che erano sempre gli uomini ad alzare la voce. Appunto. E le donne stavano zitte, tentavano una ribellione, ma poi stavano zitte. Quindi sono cambiati in meglio i rapporti, vogliamo dire, Sveva? Credo di sì. Ah, ecco. Assolutamente. Per le donne sono cambiati in meglio, per gli uomini non lo so. Forse hanno visto persi, stanno perdendo il loro primato nell'ambito della coppia. Dopodiché capisco, sia come dice Gianna e come sostiene Fausto, che il litigio sia salutare, ma è salutare per esempio se non hai davanti a te un marito aggressivo. E nel momento in cui tu cerchi di approfondire una cosa e di metterlo alle strette, quello si ribella con l'aggressività. Quindi non è facile comunque, no? I suggerimenti si possono dare, ognuno poi li deve calare anche nella propria realtà. Ma insomma, io per la mia esperienza posso dire che il rapporto di coppia ideale è quello delle camere separate, possibilmente delle case separate. Questo è molto interessante. Quello rischia di durare a lungo. Questo è molto interessante e mi piacerebbe che poi tutti gli ospiti dessero una loro opinione su questo fatto. Per esempio, scusa Sveva, Elisabetta Fernandez, tu sei di questo parere, perché no, si parla la convivenza e poi il matrimonio, anche se non sempre, insomma, sancito così in modo istituzionale, devono essere l'obiettivo finale, il fine, no, di una storia. Tu che ne pensi? Può essere, come dice Sveva, invece una buona ricetta quella di stare a distanza di sicurezza per poi ritrovarsi ogni volta come fosse una festa? Il rapporto di coppia io lo definisco un work in progress, e quindi in quest'ottica non necessariamente ci si prefigge un obiettivo iniziale, una convivenza. Ognuno può modulare il rapporto di coppia in base alle proprie esigenze. L'importante è che si abbia il senso della coppia. Prima si diceva una cosa che io condivido molto, la ridefinizione dei ruoli sessuali ha comportato poi questo aumento di disaccordo e conflittualità nella coppia, perché non tutti sono stati all'altezza di comprendere questa ridefinizione di ruolo, questo nuovo modo di essere donna e di essere uomo. Quindi per quello che riguarda il discorso della convivenza, è chiaro che la convivenza è un elemento che accende un pochino i fuochi, anche quelli sopiti, e il continuo stare insieme può potenziare situazioni di conflitto, però anche nel conflitto, come diceva Manara, l'amore può espandersi, crescere, migliorare nella logica del work in progress. Quindi non prefiggiamoci delle tappe prestabilite, cerchiamo di lavorare per obiettivi di volta in volta. Per alcuni la strada migliore sarà la convivenza, per altri sarà un amore a distanza, pur nella vicinanza, in questa distanza ci sarà comunque una presenza. Fausto Manara, tu che ne pensi? Beh, penso che molti work in progress sono come la Salerno-Reggio Calabria. Cioè rimangono sempre così, secondo te? Che rimangono sempre così. Ci vuole progettualità, secondo te? Senza complicarsi e creando un sacco di disagi. Perché? Il punto è che vivere in coppia è un esercizio difficilissimo e occorre essere dotati di grande capacità di equilibrismo. Però vivere in coppia significa anche rispettare l'individualità dell'altro, perché è vero che i ruoli sono cambiati, ma secondo me quello che sta cambiando è che tutto sommato sta cambiando come dal punto di vista teorico, poi in pratica meno, si fatica a considerare che gli spazi liberi dell'altro siano qualcosa che va salvaguardato, che va lasciato a disposizione, che la coppia non deve essere il posto asfissiante nel quale tutto debba essere svolto insieme. Il problema è che le persone vivono anche con le loro paure, vivono con la preoccupazione che senza tenere sotto controllo quello che hanno non rischiano di perderlo, e questo poi mette in moto tutte questioni che riguardano l'autostima, riguardano la valorizzazione di sé, riguardano la preoccupazione di non essere mai al sicuro. E quindi appunto la storia di Reggio Calabria è un po' su questo tracciato, insomma sul tracciato che ci sono questioni che oggi non sono per niente sciolte. È vero che i ruoli sono cambiati, è vero che questo ha portato una serie di vantaggi, è anche vero che i ruoli sono cambiati nella consapevolezza delle donne del loro ruolo, perché hanno fatto un percorso a cui hanno partecipato più o meno direttamente, insomma l'hanno respirato da di dentro, gli uomini hanno subito questo percorso e spesso, come si diceva prima, questo poi si riflette, è vero, anche nel litigio, dove l'uomo cerca di far valere la sua mascolinità nel litigio, e il litigio a questo punto non è di quelli che servono, ma di quelli che portano lo stop della comunicazione, perché si prevarica anziché chiarirsi, anziché creare una condizione per i chiarimenti. Insomma, le occasioni per l'intimità si perdono in questa maniera. Anch'io sono d'accordo con Sveva che i letti separati possono essere utili e le case separate ancora meglio. È anche vero che bisogna fare i conti con il fatto che l'occasione per l'intimità, quando si hanno queste separazioni, occorre crearle con maggiore sapienza rispetto a quelle che ci sono quando si convive in una stessa camera e quindi in una stessa casa, con la routine, di mano, le piccole incombenze o grandi quotidiane. Ma allora mi viene una domanda, Gianna Schelotto, no? Si parla tanto del cambiamento dei ruoli donna-uomo, a volte dell'incompatibilità, comunque della diversità. Per caso le coppie dello stesso sesso hanno garanzia di andare più d'accordo? Ma questo è difficile da stabilire a priori. Io penso che indipendentemente dal sesso di appartenenza ci sono poi delle personalità ben identificate, dentro le quali, come diceva Fausto, ci sono, ciascuno ha le sue paure, le sue insicurezze. Quindi prima parlavamo del litigio. Il litigio può essere costruttivo se è un confronto e se è la disponibilità dell'uno e dell'altro a mettersi in discussione, mentre invece se deve diventare il punto dal quale non si può mai recedere e il punto su cui si deve comunque a tutti i costi vincere, se no si perde in sicurezza, allora diventa davvero qualcosa di pericoloso. Anche l'accenno che faceva Sveva al fatto di dormire in camere separate, questa cosa è molto importante, se dormire in camere separate significa accettare che ciascuno abbia dei confini e quindi il rispetto dei propri confini. Noi stiamo insieme, condividiamo tante cose, abbiamo voglia di crescere insieme, di cambiare insieme, ma ci sono dei limiti oltre i quali l'altro, anche se intimo, non può andare, non deve andare. Se si riesce ad accettare questo, se si riesce ad accettare che l'altro abbia un giardino segreto da cui sono esclusa, ma che io a mia volta escludo l'altro dal mio giardino segreto, è possibile che nasca un equilibrio solido nel quale ci si può confrontare pacificamente e persino serenamente e felicemente. Svea Casati Modignani, nei tuoi romanzi, ne hai scritti moltissimi, dicevamo l'ultimo è un amore di marito, di solito perché le coppie per esempio vanno o non vanno d'accordo? Quali sono gli elementi che tu metti e che sono quelli scatenanti perché una coppia si rompa, oppure quelli che alla fine a lungo andare? Credo la sincerità dei sentimenti, che non devono per forza essere sentimenti mielosi, ma essere sinceri e riuscire a dire hai fatto questa cosa e non mi è piaciuta, oppure una donna dice oggi ho visto un uomo bellissimo e per un momento ho sognato un'altra cosa. Insomma, come ma fa? Non so, non a tutti si può dire questo. Appunto, come fai a io lo trovo raccontare normale. Tutto a un'altra persona? Devi considerare anche, io credo, che nell'ambito di una coppia la personalità più forte, secondo me, è quella della donna. Sempre? Credo di sì. Io avverto l'uomo come molto più fragile e gli uomini violenti, quelli che picchiano la loro compagna, li considero uomini molto deboli, li considero dei vigliacchi, dei frustrati, degli esseri che hanno bisogno davvero di rivolgersi a uno psicoterapeuta per curarsi. Molto spesso lo vediamo, poi lo leggiamo, lo sentiamo tutti i giorni, due omicidi alla settimana tra uomini e donne. Di questi uomini pusillanimi che si servono della loro forza fisica per stroncare la forza psicologica delle donne. E questo è un altro grosso problema, io credo, perché rischia di compromettere non soltanto la coppia, ma anche la società intorno a cui la coppia ruota. Allora, fermiamoci proprio pochissimo perché abbiamo questa pausa e nel contempo riflettiamo, allora, perché mi piacerebbe poi chiedere tra poco a Elisabetta Fernandez, visto che oltre che sociologa è anche sessuologa, ma ovviamente anche gli altri ospiti avranno il loro punto di vista su questo aspetto, quindi abbiamo visto elementi più leggeri, elementi più pesanti, più impegnativi, per esempio la passionalità e la sessualità, che ruolo hanno nella durata di una relazione sentimentale? Poi per ognuno sarà diverso, per ogni coppia naturalmente, però ci sarà pure una regola generale. Non ci sono più le mezze stagioni. Quando sarò capace di amare, probabilmente non avrò bisogno di assassinare in segreto mio padre, né di far l'amore con mia madre in sogno. Quando sarò capace di amare, con la mia donna non avrò nemmeno la prepotenza e la fragilità di un uomo bambino. Quando sarò capace di amare, vorrò una donna che ci sia davvero, che non affolli la mia esistenza, ma non mi stia lontana neanche col pensiero. Vorrò una donna che se io accarezzo, una poltrona, un libro o una rosa, lei avrebbe voglia di essere solo quella cosa. Questa canzone di Gaber, perché racchiude tante cose insieme, no? Il bisogno di crescere, di superare certi limiti che riguardano anche la nostra infanzia, le nostre origini, il complesso di Edipo, il desiderio di una donna che sia alla pari, come diceva Sveva Casati Modignani, cioè superando per quanto riguarda almeno gli uomini certe fragilità e quindi l'aggressività. Ci sono sempre qui a Non ci sono più le mezze stagioni, puntata specialissima, monografica su come far durare a lungo una relazione sentimentale, un rapporto tra due persone, sempre Fausto Manara, psichiatra e docente dell'Università di Brescia, Gianna Schelotto, psicoterapeuta, Sveva Casati Modignani, scrittrice notissima, e sociologa e sessuologa Elisabetta Fernandez, appunto sessuologa, alla quale prima lanciavo questa domanda: quanto la passionalità, la sessualità, l'erotismo, no? Si sa che è sicuramente un elemento fondamentale, anche se si dice che sempre più spesso tante coppie vivono in matrimonio le relazioni bianche, così si dice, Elisabetta. Sessualità nell'ambito della quale il come abbia una importanza del quanto, è sicuramente un qualcosa che diventa un elemento coesivo nella coppia, e la coppia è destinata a durare di più. Quella coppia che, come dicevo prima, è in continuo work in progress, non volevo però attribuire al termine un significato riduttivo, anzi volevo dire che in questo continuo progresso, in questo continuo andare avanti, l'esistenza si dovrebbe dispiegare in una situazione di benessere psichico totale, dove ognuno porta nell'ambito della coppia un qualche cosa, quindi la coppia non diventa una limitazione ma un ampliamento dell'individuo, quindi un io e un tu che diventano un noi in una situazione che non sia anonima, che sia una donazione l'uno dell'altra, quindi in quest'ottica la sessualità diventa una celebrazione della vita. Appassionatamente corpo, in qualche modo questo libro che sta per uscire c'entra un po', no? Anche con sì, la sessualità. Perché il corpo è il nostro veicolo nel mondo, anche il nostro veicolo nella sessualità, e quindi è analizzato anche in chiave legata all'erotismo e alla sessualità, ponendo l'enfasi chiaramente sull'erotismo. Fausto Manara, un altro argomento interessante che tu citi come trappola per le coppie è quello del sesso obbligato, che riguarda un po' tutte e due con una visuale, un'angolazione diversa, no? Ma riguarda una cultura generalizzata della sessualità nella coppia, che parte dal fatto che quando ci si fa una carezza più o meno intima, si pensa che venga lanciato il messaggio per cui si debba finire per avere un rapporto completo. E questo è un pasticcio per tante coppie, perché quello che io chiamo il sesso dalla A alla Z, che andrebbe un po' ridotto in certe situazioni, è nemico spesso a lungo andare, soprattutto dell'intimità, e tante volte è nemico del desiderio. In tante situazioni viene evitato di accarezzare il partner, di abbracciarlo, di stargli vicino, di esprimergli delle tenerezze, perché? Perché si ha la preoccupazione che da questo segnale parta il meccanismo standard, che è quello che porta ad avere un rapporto completo, che in quel momento non hai voglia di avere, hai voglia di intimità, hai voglia di carezza e di tenerezza. Cioè si rischia di creare l'aspettativa di andare a finire sempre dove magari in certi momenti non si ha voglia di andare. E allora quello che io suggerisco nel libro, lo suggerisco anche ai miei pazienti, è che in queste circostanze sarebbe bene ci fosse un accordo implicito per cui le carezze sono le benvenute, gli abbracci sono i benvenuti, i baci sono i benvenuti, e da lì si parte per un'avventura, una piccola avventura nella quale se uno dei due non ha la disponibilità ad andare fino alla Z ci si può fermare prima. In questo modo si creano delle situazioni molto più imprevedibili, si creano delle situazioni più desiderabili, si dà la possibilità all'intimità di esistere. Se no diventa un copione, dici, un copione sempre che in stesso modo finisce. Diventa l'obbligo del senso che deve finire sempre allo stesso modo, che è una cosa molto bella, per l'amor di Dio. Però se questo in tante coppie, questo in alcuni, soprattutto in alcuni momenti della vita di coppia, diventa un limite che porta la coppia a distanziarsi e poi via via a dimenticare non soltanto il sesso ma anche l'intimità. C'è un altro dato molto interessante nelle ultime informazioni date dall'Istat. Pensate, 7 coppie su 10 sono infedeli. Quando un triste giorno senza nulla sospettare scopri tuo marito con l'amante, non gridare, cerca di svenire se gli invoca il tuo perdon, fingi di impazzire, di smarrire la ragion. L'avrò visto in qualche sito, gli darò del lei e del tu, se il mio amante o mio marito, non ti conosco più. Se Bertoldo, Bertoldino, cacasenno, barba blu, hai la faccia del cretino, non ti conosco più. Sei Rodolfo, sei Marcello, mio fratello, forse papà. Gira, gira il mio cervello, non mi dire per carità che sei bello, forte, ardito, dopo tutto quel che fu. Com'è fatto mio marito? Non mi ricordo più. Spesso ad una radio rassomiglia il nostro cuor, basta appena un filo per ricevere l'amor, ma un'interferenza può spezzarle, allora tu perdi la pazienza, non capisci nulla più. Se il tuo sposo fa l'ottello. Insomma, questo era il clima già allora, nel secolo scorso, all'inizio del secolo scorso. Gianna Schilotto, è possibile una percentuale così alta? Al di là di come la si giudichi, 7 coppie su 10 attraversate dal tradimento. Io naturalmente ho un osservatorio un po' particolare, quindi per me è possibile, perché da me vengono o i traditi o i traditori, e quindi il mio campione è un po' viziato in partenza. Io temo che non siamo troppo distanti dalla realtà, ma naturalmente le infedeltà vanno poi viste una per una e vanno valutate sulla base dello stato di salute della coppia, perché qualche volta le infedeltà nascono in qualche modo al discorso che facevamo prima, cioè quando dentro la coppia la comunicazione stagna e quando non si ha più il coraggio di dirsi delle cose, quando certe emozioni vengono nascoste perché si teme che creerebbero la crisi o si teme di essere respinti, allora si va a cercare fuori dalla coppia, non tanto per rompere la coppia, ma per agire fuori dalla coppia emozioni che dentro la coppia sembrano proibite o sembrano pericolose. Oppure può essere, questo per esempio è un modo di tradire, che non è necessariamente contro la coppia. Ma può essere, Gianna, che invece più che non riuscire a viverle nella coppia, a un certo punto si sono un po' impallidite, sono un po' scemate, Si sono probabilmente bloccate proprio perché non si riesce, lo dicevamo bene Fausto prima, cioè quando tutto deve essere prevedibile, tutto deve svolgersi secondo un copione, e quello dei due che ha il desiderio in quel momento diventa una specie di esattore, e se l'altro dice di no si sente respinto e quindi sente messa in discussione tutta la sua identità, allora nascono dei problemi di incomunicabilità, nascono anche delle profonde infelicità. E di qui nasce qualche volta il tradimento, perché piuttosto che confrontarsi, che mettersi in discussione, che affrontare il problema dell'incapacità di stare insieme, o comunque di quali possono essere i conflitti nati negli ultimi tempi, si preferisce cercare qualcuno fuori che assecondi le nostre aspettative, che ci tolga delle ansie, per continuare a vivere dentro il matrimonio nel silenzio e nella palude nella quale ci si era ridotti. Infatti leggevo che oltre il 60% delle coppie preferisce vivere un po' nel sottobosco questi rapporti paralleli, però raramente arriva poi alla decisione definitiva, esatto, dolorosa, esatto. No, di spezzare del sono tutto. Sono sempre espedienti, sono sempre fughe per non affrontare delle realtà che fanno paura. Sveva Casati Modignani, anche nel tuo ultimo libro, Un amore di marito, si tocca questo argomento del tradimento. Del sospetto del tradimento. Sospetto. Si occupa il sospetto del tradimento, che è devastante, perché quando hai il sospetto poi tutto diventa gigantesco, no? Ingrandisce ogni cosa. Ma poiché io racconto storie di coppia per sentito dire, quindi racconti che ascolto da uomini e da donne, non in veste di terapeuta ma di curiosa ai fini delle mie storie, credo che ogni coppia abbia un equilibrio suo personale che forse può essere codificato, forse no, non lo so, ma mentre Fausto e Gianna parlavano di questi equilibri nell'ambito della loro esperienza professionale, a me viene in mente il romanzo che ho appena finito e che uscirà in primavera, dove c'è questa coppia giovane, bella, agiata, dove lei a un certo punto tradisce il marito, e lo tradisce per 28 anni. Caspita. Sì, una volta all'anno, con questo personaggio che lei incontra, e il marito un giorno scopre, ma lo scopre dopo 2 o 3 anni che la moglie lo tradisce, e qual è la sua reazione? È quella di lui scopre che questa donna lo tradisce una volta l'anno e che per il resto è una moglie straordinaria, irreprensibile. Allora qual è cosa scatta in lui? Lui comincia a pretendere di possederla notte dopo notte, più volte nel corso della notte, quasi voglia affermare la sua virilità e dirle: guarda che io sono il massimo al quale tu puoi aspirare, umiliandola, cioè facendola sentire uno strumento, schiacciandola. Sveva, dice la verità, tu l'hai sentita narrare da qualcuno che l'ha vissuta veramente questa cosa? Beh, possiamo dirlo tra noi? Io so perché sono una coppia che conosco, dove lei, per esempio, quando è arrabbiata con lui, gli allenta una sberla e lui se la tiene, lo schiaffone se lo prende e immediatamente si placa. E lì c'è un rapporto chiaramente madre-figlio, dove lei è la mamma e lui è il bambino che ha fatto la marachella e accetta la punizione della mamma. Queste storie per me sono un materiale straordinario per raccontare delle vicende nei miei romanzi. Se volete diventare protagonisti quindi con le vostre storie particolari, non avete che da rivolverci. Voi rivolgetevi a Sveva Casati Modignani, perché poi le narrerà nei suoi romanzi. Mi chiedo e vorrei chiedere poi anche agli altri ospiti, ne abbiamo trattato appunto un po' del tradimento, visto che sembra un dato così pesante negli ultimi dati Istat, no? 7 coppie su 10 infedeli, se è proprio appunto un autentico tabù, siccome dicevano gli ospiti, qualche ospite può forse rientrare nell'equilibrio della coppia. Poi si sa che veramente che ogni persona si incontra con un'altra ed è diversa con ogni persona con cui poi sta, per cui davvero sono dei meccanismi che a volte è molto molto difficile esplorare. Mi dice Giorgio De Luca, mi conferma in assistenza regia, che ci dobbiamo fermare per le prossime informazioni. A chi sta viaggiando, che spero elabori nella propria testa chi viaggia in questo momento, a volte è anche più facile riflettere pur stando attenti alla strada su come effettivamente si potrebbe magari migliorare il proprio rapporto, su cose che si possono scoprire, imparare e poi una volta ritornati nella coppia mettere in pratica. Non ci sono più le mezze stagioni. Nessuno in terra, anche se vuole, può separarlo, mai l'ha detto lui, siamo la coppia più bella del mondo. Loro ci sono in qualche modo riusciti, no? Adriano Celentano e Claudio Amori avranno avuto le loro crisi alte e basse, ma insomma sono una coppia inossidabile comunque nel tempo. E, c'è una storia bellissima che ho letto in questi giorni sui giornali di un certo Franco a Milano che diffonde in giro per la città, in particolare per un parco, messaggi scritti un po' ovunque, sui cartelloni, sulla segnaletica stradale, persino con scritte sul muro. Sta cercando una donna. Una donna misteriosa, questa Carol, e cerca di ritrovarla, e fra i tanti messaggi per esempio scrive: da 15 giorni che vengo in questo parco dove ci siamo dati il primo bacio, seduto su una panchina aspetto che tu arrivi, e poi ancora adesso che sono tornato è impossibile contattarti, sembra che lui sia stato via qualche mese, insomma mi siedo sempre su una panchina qui sul parco aspettando che tu arrivi e non arrivi, aspettando una chiamata ma non arriva. Questo potrebbe essere un buonissimo spunto per Sveva Casati Modignani, ma chiedo a te, esempio, Elisabetta Fernandez, uno così, che cosa dovrebbe, qualche errore evidentemente ha fatto, no? È stato via dei mesi, adesso non possiamo naturalmente immaginarci con esattezza come sono andate le cose. Una volta che uno sbaglia, ecco, per esempio, ritornare sui propri passi, chiedere scusa, qual è l'approccio migliore per dimostrare all'altro che si è fatto un errore ma che in realtà si vuole ritornare sulla propria strada, che la persona che si è accanto è quella che si vuole veramente. Elisabetta, non è facile, ma dici pure. Non è facile, anche perché a volte il tradimento è proprio un segno proprio di quella stanchezza, di un'opacizzazione di emozioni, e quindi già porta in sé magari qualche cosa di distruttivo. Però ecco, come ripeto, qui parliamo per statistiche, quindi poi ci sono i casi specifici, certo, con le soluzioni specifiche. Un ragazzo, un uomo che come questo, che così si strugge d'amore, mi riecheggia un pochino i temi dell'amore romantico, le trepide attese, gli appuntamenti mancati, le lettere profumate, e quindi può colpire il cuore di una donna e quindi convincerla a perdonare. Io penso sempre che dobbiamo tendere al perdono, nella misura in cui si deve perdonare il fatto, l'accaduto, non la persona, quindi è più facile perdonare e quindi riuscire ad andare avanti. Però io faccio mio il motto di Marcel Proust, credo che la vera scoperta non consista nel trovare nuovi territori, ma vederli con nuovi occhi, quindi cercare di mantenere in piedi il rapporto che si ha e costruirlo giorno per giorno, cercare di incontrare l'altro, essere nell'altro, capire in primis se stessi, perché chi non capisce se stesso penso non possa capire gli altri. Sei d'accordo, Fausto Manara? Sì, sono d'accordo su quest'ultima osservazione, certamente. Devo dire che ci sono situazioni nelle quali la costruzione deve passare per delle questioni che si affacciano nel vivere in coppia e che portano più sul versante dell'insopportabilità che neanche del progetto. Questo Franco che si strugge sulla panchina del parco aspettando l'amata Carol, probabilmente l'ha fatta molto grossa. Sì, non credo anch'io. Non è questione, ma probabilmente non l'ha fatta grossa in senso assoluto, sai. La si fa grossa in rapporto a come risuona quello che fai di negativo nei confronti di una persona. Ci sono delle situazioni assolutamente irrecuperabili, perché il dolore provocato da un certo comportamento non è un dolore che si appiana. Volevo dire una cosa sul tradimento. Io nel mio libro faccio faccio un passaggio in cui dico, e ne sono convinto, che il tradimento, giusto per riprendere quello che diceva Gianna Schelotto prima, che i tradimenti sono, che non sono certo tutti uguali, che ci sono dei tradimenti fuggevoli, non di grandissimo significato, che possono testimoniare in qualche modo, in qualche piccola misura, anche un atto d'amore nei confronti della persona con cui si sta. Ma questa è grossa, eh? Sì, è grossa, è grossissima. Che sono quelli che vengono perpetrati, o comunque vengono sperimentati, partendo dalla preoccupazione centrale di non disturbare i rapporti di coppia e soprattutto di non creare disagio, sofferenza al partner. Questo tutto sommato è un mettere questioni significative del proprio rapporto di coppia anche in questi momenti in cui, vabbè, visto che 7 su 10 lo fanno, non sono certo inusuali. Questo per dire che in realtà i tradimenti hanno una quantità di facce che possono essere da distruttori del rapporto di coppia anche a momenti di rilancio per un rapporto. Quindi è vero, non è un luogo comune. A proposito dei luoghi comuni dell'amore, no? Mi viene in mente anche di chiedere quali sono i luoghi comuni dell'amore. Anche questo, di dire che in alcuni rapporti, con certe modalità, certi piccoli tradimenti potrebbero, dice addirittura, essere un rilancio. Io credo che molti si prenderanno appunti, uomini e donne, per poter avere un alibi di ferro. Un piccolo atto d'amore o comunque di interesse nei confronti del partner. Di rispetto, ecco, in qualche misura, nella misura consentita all'interno di una situazione come quella del tradimento. Gianna Schelotto, tu da donna come la pensi? Anche se ormai dicono che sono più o meno in parità. Ma no, è che un tradimento, immaginiamo una coppia che va avanti da anni, sempre, come dire, con una sorta di... è caduta nella monotonia, nella routine, nel dirsi sempre le stesse cose. All'improvviso uno dei due scopre un tradimento e tutta la stasi, tutto il silenzio che c'era in quella coppia subisce come un terremoto. Allora d'improvviso ci si arrabbia, si litiga, si parla di notte, si fanno liti interminabili, discussioni che non finiscono più, accuse reciproche. Però questo terremoto qualche volta mette di nuovo in circolo quell'emotività che nella coppia si era spenta. Quindi appunto ci sono tanti tipi di tradimenti, ma ci sono dei tradimenti che qualche volta servono a riattivare la coppia. Una coppia che si era spenta, che all'improvviso sente circolare nuova energia dentro di sé. Questa è una cosa che crea grandissima sofferenza, grandissimo dolore, ma che fa rinascere, quando appunto i danni non sono irreversibili, con la voglia di rimettersi in discussione e di ricominciare da dove ci si era perduti. Senti Gianna, ma a questo proposito, la persona che lo compie lo dice o non lo dice poi al partner, alla partner che deve fare? Ma allora, anche qui ci sarebbe da aprire un'altra grande parentesi. La persona, io dico che se uno ha il coraggio di tradire, deve avere anche il coraggio di tacere, perché qualche volta le confessioni non si fanno per generosità o per lealtà, si fanno per scaricarsi di dolore, sensi di colpa, e si fanno per aggredire l'altro. Quindi ognuna di queste cose che apparentemente sembrano negative o positive vanno analizzate all'interno della situazione generale della coppia. Sveva Casati Modignani, che cos'è la complicità? La complicità credo che sia una cosa bellissima quando si instaura in una coppia. È un qualcosa che è un collante, perché un uomo e una donna complici rischiano di non annoiarsi mai. Io lo vedo come un aspetto positivo della vita in due. Io naturalmente parlo sempre vedendo i personaggi delle mie storie, e sì, mi viene in mente di aver raccontato storie di coppie molto complici tra loro. E questa complicità è comunque, nelle storie che ho raccontato io, sempre motivata da un interesse di base. Ecco, c'è questo personaggio ruspante ma molto intelligente che ama per tutta la vita la sua, sua moglie, la sua donna, e l'ha amata fin da quando era ragazza, che è una fuori di testa completa. Quindi non annoia mai, non c'è il rischio di prevedibilità. Non si annoiano mai, questi anche da vecchi riescono a far l'amore, perché c'è questa complicità di fondo che li tiene uniti e li stuzzica e li coinvolge. Personalmente ritengo la complicità un fattore positivo, poi mi piacerebbe invece sapere se la pensano allo stesso modo i tre studiosi che sono lì, che sono qui con noi. Senti, mentre Roberto Scaltritti alla parte tecnica mi avverte che abbiamo pochissimo tempo ancora, riusciamo a fare una battuta? Per esempio tu, Elisabetta Fernandez, cosa pensi della complicità, brevemente? Sì. Per me la complicità è un elemento fondamentale, quindi mi associo completamente, anche perché secondo, io dico la regola delle tre C, sì. Chiarezza, complicità, comunicazione, già sono tre bei pilastri per una buona vita di coppia. Aspetta che mi appunto: chiarezza, complicità, comprensione. Comunicazione, scusa, mi è rimasta. Comunicazione. Fausto Manara, e questa è quindi la ricetta di Elisabetta Fernandez, detta in 3C. La tua, molto brevemente? La mia sta in un decalogo, quindi non lo sto a dire chi lo vuole conoscere. Vabbè, amici, nemici, amanti possibili. Però su, non devi dire il finale del giallo, devi dire nel quale io cerco di dare delle coordinate, perché soprattutto in un tempo di crisi come questo il rapporto di coppia possa diventare un buon investimento e non un investimento invece faticoso e magari a perdere. E visto che gli altri investimenti vanno come vanno, nella complicità, sì. vorrei dire una cosa molto, molto veloce, che è il titolo di un film, Basta che funzioni. In realtà quello che diceva Sveva è in questo contenitore. Non ci sono delle coppie, le belle coppie non sono coppie standard che hanno delle caratteristiche di un certo tipo, ci sono coppie che appunto possono vivere, proprio grazie alla complicità che riescono a stabilire, possono vivere una relazione piacevole, creativa e vivace anche per lungo tempo, basta che funzioni, basta che il loro rapporto di coppia abbia degli ingredienti che siano ingredienti nei quali, per esempio, si lasciano fuori i genitori dall'obbligo di essere dentro il rapporto di coppia continuamente. A volte si vedono delle coppie che hanno delle folle di parenti attorno a sé, reali o immaginari. Beh, alcuni a volte sono affettuosi, no? Dipende da quanto condizionano. Sì, però insomma, non, quando io scelgo una persona, scelgo quella, non scelgo il pacchetto familiare, anche quindi chi non se la sente di condividere il pacchetto familiare dovrebbe avere il diritto e la comprensione per non essere obbligatoriamente coinvolto, per esempio. Gianna, la tua ricetta proprio in pochissime parole? Per restare alla complicità è riconoscersi l'uno nell'altro, e quindi se l'altro mi riconosce, io lo riconosco come uguale a me o come simile a me, vuol dire che ci fidiamo reciprocamente e possiamo affrontare insieme qualsiasi difficoltà. Bene, io direi che insomma di suggerimenti, di stimoli, di indicazioni, insomma qualche spunto di riflessione quantomeno l'abbiamo dato con Fausto Manara, con Gianna Schelotto, con Sveva Casati Modignani, con Elisabetta Fernandez. Tante tante cose ci sono da dire, ce ne saranno sempre da dire, film, letteratura continueranno sull'argomento, ogni tanto ci soffermiamo così a rifletterci, ma visto che siamo praticamente nel nuovo anno, proviamoci, no, qualche volta a rifletterci un po' di più, a fare qualche piccolo sforzo anche di generosità. Auguriamo naturalmente a Franco di trovare la sua Carol, se se lo merita, posso dire tra parentesi, speriamo che tutte le storie d'amore naturalmente vadano per il meglio. Intanto, dopo tutta questa puntata speciale Non ci sono più le mezze stagioni, da Roberta Giordano non solo come sempre sereni orizzonti a tutti, ma diciamo per una volta anche sereno amore a tutti.